con Marta Costa della casa editrice Asterisco per parlare del libro I movimenti omosessuali di liberazione di Maria Silvia Spolato, che sarà presentato a Roma alla Casa Internazionale delle Donne giovedì 23 maggio 2019. Marta, ben trovata. Buongiorno Ci parli, ci racconti, ci presenti questo libro? a tutti. Sì, questo libro è stato pubblicato molti anni fa, negli anni 60, e quando Maria Silvia Spolato militava tra Roma e Torino. E il grande pregio di questo libro, il grande lavoro che fece Maria Silvia Spolato fu di raccogliere. Beh, Maria Silvia Spolato è la fondatrice del Fuori, uno dei primi collettivi omosessuali italiani, e sta proprio a lei è proprio una delle primissime militanti, insomma. E Maria Silvia Spolato in quegli anni appunto militava, faceva politica femminista, lesbica, e iniziava a incontrare altri compagni, compagne omosessuali, insomma, e il suo pregio fu quello di mettere insieme tutti, di raccogliere tutti i documenti, non solo dei collettivi nascenti italiani, ma europei. Quindi il libro racconta un po' la nascita del Fuori, che nacque, insomma, durante negli anni 60 ci fu, 70 ci fu questo grande convegno di sessuologi a Sanremo, insomma, no? Che venne ampiamente contestato. Da quella contestazione nacque il Fuori, quindi il libro esordisce un po' con questo e poi raccoglie. È molto bello, raccoglie in lingua anche i volantini, i documenti, insomma, proprio di quegli anni di vari collettivi europei. Questo è un po' il libro, insomma. Elena Biagini ha gentilmente per noi curato l'introduzione facendo un grande lavoro di ricerca perché molte cose su Maria Silvia Spolato non erano del tutto chiare, insomma. Quindi ha fatto questo lavoro, insomma, molto grande di ricerca. Che figura ne emerge anche dal contributo di Elena? Molto partita Maria Silvia Spolato, molto, cioè alcune cose sono molto belle, interessanti perché non si sa quanto Maria Silvia dietro alcuni volantini firmati ci fosse solo lei o davvero un intero collettivo. Sicuramente una persona molto eccentrica, no? Ci sono dei passaggi dove viene descritta molto bene anche da Dacia Maraini, c'è un contributo di Dacia Maraini che ha rivisto per la pubblicazione di questo testo. Dopodiché molto si è detto su di lei, la si è ritratta semplicemente come una clochard, come una persona al limite, e poi è vero che visse gli ultimi anni della sua vita in strana, no? Però non era solo questa, no? Maria Silvia Spolato. Penso che molto di quello che lei ha fatto e che non solo lei, molti altri militanti, insomma, di quegli anni, no? Hanno permesso di trovarci oggi nella situazione forse di maggior diritto, boh, chi lo sa, in cui ci troviamo. Beh, penso che per noi lesbiche sia importante lei. Nel periodo storico affrontato, ossia gli inizi degli anni 70, quali erano le maggiori rivendicazioni del movimento? Sicuramente che tutto parte da questo convegno di sessuologia, dove c'erano i maggiori medici psichiatri, no? E una delle prime richieste era la depatologizzazione dell'omosessualità, perché all'epoca l'omosessualità stava nel DSM, nel manuale diagnostico, no? Quindi questa era una delle prime. E quello che veniva contestato a Sanremo era proprio che gli esperti parlassero di condizioni di cui non avevano idea, no? E quindi quello che veniva, che nel libro emerge, no? Noi parliamo per noi stessi, noi non siamo persone malate, che poi, se ci pensiamo oggi, non è che la direzione è differente, no? Sono ritornate in auge queste terapie riparative, tutto quello che ci dice l'estrema destra sull'omosessualità e il binarismo di genere, no? È molto ritornare indietro, no? Ci parli anche un po' più complessivamente del progetto Asterisco Edizioni? Qui Asterisco Francesco Edizioni nasce pochi mesi fa in realtà, questo è il nostro primo libro che pubblichiamo, si chiama Asterisco perché l'asterisco in italiano no, lo usiamo quando non vogliamo, quando vogliamo parlare sia al femminile che al maschile, che utilizzare la U, diciamo, quella U che non vuole essere un neutro, ma che vuole rivendicare uno spazio di esistenza. Quindi l'idea dell'asterisco ci è venuta non tanto come allora creiamo un nuovo neutro, no, non è questo. L'asterisco è creare uno spazio immaginario, no, nelle nostre menti, creare una possibilità, creare un qualcosa in cui tutte e tutto ci si possano riconoscere e possono decidere cosa essere e chi essere. Da qui nasce l'idea di chiamarci Asterisco Edizioni. È una casa editrice indipendente, noi che facciamo parte della casa editrice siamo in quattro, a Roma ci sono solo io, le altre tre compagne stanno a Milano, ma una di queste verrà oggi per la presentazione del libro. E noi veniamo dai collettivi LGBT, da quelli che il mondo definisce i movimenti antagonisti LGBT femministi, e l'idea era di creare un progetto collettivo, no? Di editoria collettiva. Quindi qualsiasi cosa, qualsiasi pubblicazione viene decisa collettivamente tramite il consenso, e la sfida della casa editrice è quella che un po' vuole andare contro le logiche del mercato, e quindi abbiamo deciso che qualsiasi persona che collabora con noi, che pare che io sto dicendo cose scontate ma nel mondo dell'editoria non lo sono, qualsiasi persona che viene, che collabora con noi deve essere retribuita. Abbiamo deciso di non vendere su Amazon e Appini, perché pensiamo siano il male in assoluto, non solo dell'editoria chiaramente, no? Ma di tutto uno sfruttamento molto importante. E abbiamo deciso per ora di non affidarsi alla distribuzione, in quanto la distribuzione in realtà è un po' strozza l'editoria, perché la percentuale che i distributori prendono è enorme. Di conseguenza ci stiamo distribuendo da soli, insomma, per questi primi libri. Certo che non è una rivoluzione, cioè siamo consapevoli delle grandi contraddizioni comunque che dobbiamo affrontare, no? Però pensiamo che un po' con quello che pubblichiamo e un po' con queste idee che ci hanno fatto costituire la casa editrice possa essere un po' un piccolo cambiamento, ecco, una piccola goccia di cambiamento. Ma noi stiamo pubblicando questo, ma contemporaneamente stiamo pubblicando questo nella collana Eresia, dove verranno pubblicati tutti quei libri di quelle persone come Maria Silvia Spolato, che nel passato hanno dato un enorme contributo con la loro vita, con i loro corpi, insomma, alla lotta. E contemporaneamente abbiamo inaugurato un'altra collana che si chiama Illustrissime, che invece coprirà tutto quello che è grafico, e quindi a breve il 30 presenteremo la il fumetto di Frat, che è una ragazza romana che ha già pubblicato altri libri non con noi, che si chiama Non facciamole un lesbo drama extended. Allora, in chiusura ci lasci tutti i riferimenti internet per saperne di più? Sì, va bene, potete vedere la pagina Facebook Asterisco Edizioni. Perfetto. C'è il canale Instagram, gruppo, sì. Canale Instagram uguale Asterisco Edizioni, e poi c'è il sito internet www.asteriscoedizioni.com. I libri li potrete comprare direttamente sul nostro sito scontati, oppure a seconda delle città si trovate nelle librerie indipendenti. Roma, da Tuba e Libreria Alegre. Allora, ricordiamo la presentazione del libro I movimenti omosessuali di liberazione di Maria Silvia Spolato, introdotto da Elena Biaggini con il contributo di Dacia Maraini, giovedì 23 maggio 2019 a Roma, la Casa Internazionale delle Donne. Un saluto e un ringraziamento a Marta Cotta della casa editrice Asterisco. Marta, un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Un abbraccio, buona giornata, arrivederci.